batterista per la sua cazzo di festa. Il contante a noi non basta, ma mancano le misure di queste percussioni. Però non siamo convinti, ma quante indecisioni. Salviamoci le pelli, per noi sono tutte uguali. Sappiate o non sappiate, mamma, non sappiamo quali. La pelle è deludente, il prezzo è esorbitante, ma prendere un sol piatto ci sembra deprimente. Fanculo alla sorpresa, affanculo. Prendiamogli qualcosa. Ma che cosa? Una telefonata, per dirgli vuoi che cosa. Salviamoci le pelli, per noi sono tutte uguali. Sappiate o non sappiate, mamma, non sappiamo quali. Salviamoci le pelli, per noi sono tutte uguali. Sappiate o non sappiate, mamma, non sappiamo quali. Tante, è la cotta più allettante, e questo componente, sto nervo di rullante. Salviamoci le pelli, per noi sono tutte uguali, le abbiamo già scartate, scabrosi coi re.